E per seconda cosa, siamo d'accordo a dirgli come stanno davvero i fatti, ovvero che anche dopo lo sgombero delle Telecom, cosa non succederà mai più? Mai più se sta a casa! E allora forza Bologna meticcia, forza Bologna stagonista, l'hanno già capito che subito dopo lo sgombero abbiamo preso il coraggio a quattro mani e torniamo a guardare negli occhi, fin sopra le loro stanze, come pensano di non ascoltare le urla e grida ai nostri slogan, li guarderemo negli occhi ancora una volta per dire casa, reddito, dignità! Tutti insieme, stretti il cordone, mano nella mano, continueremo a resistere, a dare battaglia, fino a quando questa società corrotta, queste istituzioni di contrabbandieri e speculatori non avranno fatto il loro tempo. E promettiamocelo che il loro tempo glielo scandiremo noi, passo dopo passo, occupazione su occupazione, finché tanti sfratto su altri sfratto. E allora avanti Bologna meticcia, conquistiamo il centro!